of the Night. E lo scorso weekend abbiamo effettuato, io, Max De Rieu, Luca e Simone, una bella lunga nottata. Era la mattinata, diciamo, del sabato 17 di maggio, ben 6 ore, con uno special Hard and Heavy Nightmare. E ringrazio ancora tutti gli amici che hanno seguito, chi rientrando a casa, chi addirittura tutta la notte, chi tramite rockfamily.it. insomma, veramente grazie di cuore a tutti voi, dalla voce di Marco Gravelli. Qua presente alle 9:06 primi per dare il via a questo lunedì 19 di maggio, penultima settimana. Siamo oltre la metà del mese, penultima settimana quindi di vita di Rock FM. Un saluto naturalmente a coloro che sono già presenti all'ascolto. Come al solito abbiamo 180 minuti da trascorrere insieme sino alle 12 con i vari compleanni qua e là nel corso di queste 3 ore, con i vari compleanni di questo weekend, quindi il 17 e il 18, e poi la giornata odierna che è il 19. Vado a guardare, a proposito di compleanni, se qualcuno, no, non è tra i vari iscritti della rockfamily.it, nessuno compie gli anni in questa giornata. Vabbè, non importa. 335-100-7777 è il nostro numero di SMS, servirà anche per vincere biglietti per, sono gli ultimi biglietti dei concerti che vi regaleremo in queste 2 settimane, e ancora per comunicare la mail marco@rockfamily.it. Siamo pronti a salutare anche i primi amici come Franz, Max, che mandano i vari SMS. Buona settimana, grazie allo sborone, grazie anche a Mike, patente 198, grazie per i complimenti per la nottata dello scorso weekend. Tra parentesi, questo weekend, il sabato 24, ci sarà Good Rockin' Tonight, lunga notte dedicata a rock and roll anni 50 insieme a Maurizio Faulisi. Pronti anche per il primo Trisdassi di quest'oggi con Peter Frampton, The Blues Brothers e gli Eagles.

best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Sweet Home Chicago, The Blues Brothers e gli Eagles con le note di questa You Got the Best of My Love alle 9 e 27 minuti primi. Saluto Raffa dalla Versilia che dice il 17 notte ho festeggiato i miei 42 anni con chi? Probabilmente con noi e ci fa piacere, ancora tanti tanti auguri. Risposta al rinnegatore che mi chiede se regaleremo i biglietti dei Gods, ce lo confermeranno questa settimana. Eventualmente li regaleremo la prossima. Che io sappia, caro amico, non conosco un album interamente strumentale dei Pink Floyd, però potrei anche sbagliarmi perché ne ho incisi talmente tanti, magari in qualche situazione particolare, però ci sono brani solo strumentali, ma non forse un intero album. Un saluto ad André che si complimenta per lo special di venerdì, ieri me lo sono anche risentito tutto, bravo André, buona giornata anche a te. Buongiorno Marco, venerdì notte complimenti dal primo all'ultimo minuto. Eli da Lucca, grazie anche a voi. E continuiamo con il prossimo personaggio che proprio in questi giorni ha pubblicato un album nuovo, è ritornato addirittura con tanti amici, il singolo ad esempio è suonato insieme a Eric Clapton. Sto parlando di Steve Winwood che oggi ritroviamo e riascoltiamo alle 9:28 minuti primi su Rock FM con Roll With It. Grazie a Marco da Pisa che dice complimenti per tutta la nottata di venerdì, non me ne sono perso neanche un minuto. È stato anche per me, Scendi, un grande piacere. Grazie ancora, anche perché mi hai segnalato che tutte le mattine ti svegli ascoltando Rock FM, trovando la mia voce, questo mi fa piacere ancora di più. 9.32, abbandoniamo quindi Steve Winwood e tra poco troveremo invece la formazione degli Yardbirds. Rock FM Spot.